Germoglio inquieti la nuova esistenza, fluido pulviscolo, abbraccio d'abisso che nutre i suoi rami nel buio dell'acqua, stilla che germina nuova speranza. E cosa senti? Non agitarti e tranquillizzati. Madre di tra poco sparirà nella tua piccola alba. Yeah.